No, io volevo precisare che è vero, io nella sera stessa in cui Fini ridiventò segretario dell'allora MSI, io me ne andai, insieme però a Fabio Granata, Umberto Croppi e tanti altri che oggi sono intorno a Fini. Ecco, ma come mai lei da destra... oggi Come mai lei da destra torna ad avvicinarsi a Fini in questo momento? Perché contro Berlusconi, diciamo la verità. Mi deve spiegare lei cos'è oggi la destra e la sinistra? No, è per semplificare, lei ha ragione. Sì, capisco la semplificazione, però su 20 cose che accadono ogni giorno in Italia a me capita di essere 10 volte di destra e 10 volte di sinistra. Sarò confuso io? No, sono anch'io come lei, per cui non si preoccupi, la pensiamo allo stesso modo, la pensiamo esattamente allo stesso modo. Senta, le voglio chiedere una cosa, ma poi lei disse anche un'altra cosa di Fini, cioè chi il coraggio non ce l'ha mai avuto non è che se lo può dare, insomma non lo vedeva come personaggio molto coraggioso. Però è molto fortunato. In che senso? Mi scusi, mi spieghi meglio. È molto fortunato, a Roma dicono che è nato col fiore nel culo come le zucchine, e questo è lui è fortunato, allora uno oggi non è com'è la cosa? No, mi scusi, mi ripeta un po' la cosa, perché com'è che dicono a Roma, che non me la ricordo? A questo? Roma dicono che uno è nato col fiore interculo come le zucchine, per dire che uno è fortunato. E allora oggi, siccome non si richiede grande coraggio in politica, si richiede soltanto, tra virgolette, il coraggio delle proprie posizioni. Oggi queste posizioni Fini le sostiene, è esattamente all'opposto di quanto sosteneva nel 1990-91-92, per cui siccome io voglio eliminare dall'Italia, se possibile, il re Sola. Beh, eliminare il re Sola, ma è come il re Sola? Come il re Sola? Stai signor Saidi di Gudia, il re Sola chi sarebbero? Berlusconi ha dato sole a tutti gli italiani dal 1994. Eliminare in che senso? Mi scusi, eliminare, mandarlo a casa, in una delle sue 20 case, mettendolo magari in imbarazzo, ma insomma, siccome vivrà fino a 120 anni e io preferisco vivere un giorno da coglioni che 120 anni da Berlusconi, allora mandiamolo a casa, si riposi. Devo dire che il signor Staiti di Cudia, che è stato in Parlamento l'ultima volta in che anno? Io sono uscito nel 1992. Nel 1900? 92. Ah, nel 92. Tra le definizioni che ha dato di Berlusconi, alcune le avete appena sentite, ce n'è un'altra strepitosa, altre due strepitose. Cabarettista, bugiardo e poi addirittura serpente a sonagli. Ne ha coniata qualcun'altra? No, io posso solo ricordare che nel 1951 ero a Milano e essendo uno studente andavo a fare la clac al Teatro Nuovo, eccetera. No, ho capito, di Berlusconi. Di vedere, ma glielo dico, mi capitava di vedere Carlo D'Apporto. Non avrei mai pensato allora che Carlo D'Apporto, una controfigura di Carlo D'Apporto, potesse diventare presidente del Consiglio. Una controfigura di Carlo D'Apporto. Senta, poi mi spiega se prende la tessera, se magari non esistono, Parenzo, le tessere di Futuro e Libertà. No, non prendo nessuna tessera. Nessuna tessera, benissimo. Ci